24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Che bellezza se qui con Scalfari sono quelle cose da fine del mondo, sai, dice, in America un presidente nero, due papi vivi nello stesso momento, Benigni e Scalfari si incontrano, il PD al 41%, sì, quelle che lui dice, ma che è? Oh, 41%, il PD non l'ha preso neanche alle primarie del PD, pensa di che una cosa incredibile. Vabbè, è il Benigni un po' diverso col quale iniziamo oggi dal consueto Roberto Benigni nel giorno in cui inizia la 58esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 58esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Siamo qui, cari ascoltatori. Questo è 24 mattino, sono le 6:34 minuti. Voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, anche se si aggira, ci ha un po' abbandonato, lo studio è vuoto, vabbè, ma tornerà, entra, esce, va, fa, taglia file, non lo so. Saluto Gianmarco Ferronato oggi in regia, incredibile, al debutto, d'altronde partono i mondiali tra 3 giorni e quindi debutto in regia per lui. Avete sentito Benigni, il PD è il 41%, ma Renzi dice la ricreazione è finita. La ricreazione è finita perché ieri i ballottaggi hanno portato qualche risultato, come dire, la rossa Livorno. La rossa. Io voglio subito salutare il migliore amico del Movimento 5 Stelle, Vincino, che combatte sul web. Buongiorno. Cittadinanza onoraria a Livorno per Vincino, Livorno pentastellata, eh? Che te ne pare? Stupendo, eh? Dopo 70 anni diciamo che non ne potevano più a Livorno. Dopo 70 anni di PD, di burocrazia, non proprio basta. No, ma a Livorno avrebbero votato chiunque, ma anche a Bologna poi. Ma 15 anni fa a Bologna hanno cambiato per una volta, insomma, bisogna ogni tanto aprire la finestra. Ogni 70 anni. C'è quello là del Vernacoliere che felice, finalmente. Certo. Appunto, titolo del Vernacoliere di oggi. Che sarà mai, Vincino? Che avrà titolato? Non lo so, perché loro parlano molto in gergo che io non lo so. Perché l'unità titola... Sai come titola l'unità? Sì. Ferita a Livorno. A Livorno è nato il Partito Comunista, insomma. Assolutamente. E c'è quello che è andato a San Rossore, là, Grillo, chiesto al napoletano di dimettersi, lasciare San Rossore e via. Ma sei cosa? No, ma voglio sapere allora, tu hai passato una giornata. I titani sono felici pure loro. Vabbè. L'altro giorno, siccome tu hai detto i parlamentari 5 Stelle sono degli ignoranti e dei deficienti, io l'ho messa subito. Meno due. L'ho messa subito su Twitter, ti hanno massacrato. È stata una giornata terribile per te. Stupenda, una giornata bellissima. Oggi come stai dopo la vittoria a Livorno? Diciamo che sto molto bene, già sto lavorando su varie cose. Devo dire che va bene, questa è Livorno, sì, c'è quella là, festa là, i pisani in festa e quell'altro. No, a me lo sai che cambiamo argomento, facciamo così. Fatemi aprire il Parlamento, che così se apre il Parlamento possiamo aprire questa settimana. Può aprire, sì. Eccoci qua. Dai, voglio salutare anche Nicole Minetti, ovviamente. Voglio salutare anche Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Eccolo qua, Massimo, buongiorno a tutti. Tu sei contento? In Veneto invece c'è anche lì una sorpresa. A Padova ha vinto la Lega. Bitonci, nostro amico che spesso invitiamo da Cittadella, from Cittadella to Padua. Padova, che è sempre stata a sinistra negli ultimi tempi. Zanonato ha perso Zanonato, Padova. Beh, ha perso anche se non si candidava, però era il suo, insomma. Capite, diciamo, insomma. Erano inguaiati con il Mose là un po'. Col Mose. Appunto, ha vinto, cioè si può già dare qualche lettura, Massimo, secondo te, di queste ultime vicende? Per esempio in Veneto questa volta la Lega era immune, insomma, sembra, almeno dalle inchieste, e allora magari può essere una... Sì, può aver influito sicuramente, anche se già al primo turno, che non era ancora esploso il Mose, il risultato era quasi... testa a testa, quindi la sorpresa si era già un po' affacciata anche lì. Non lo so francamente quanto in certi posti influiscano le situazioni locali e quanto invece uno scandalo come quello del Mose può effettivamente indurre magari all'astensionismo più che altro, ecco. Sì. E quello l'astensionismo spesso penalizza ma certo. Il candidato favorito. Però certo c'è qualcosa che sta cambiando, perché adesso io questa frase, la ricreazione finita, l'ho letta sul Messaggero di Renzi. Pare che adesso è andato. Sai dov'è Vincino? Dove è partito? No. Sì. In Vietnam. Aspetta. In Vietnam sì. Cina e Kazakistan. Non la Mongolia. No, non lo so, forse anche la Mongolia. Passando di lì, un salto in Mongolia non si nega a nessuno. No, tutti i paesi che hanno una forte lotta alla corruzione, dove la corruzione non esiste praticamente, dove cosa abbiamo c'entra? Un solido partito che governa, cosa e niente la Cina è il paese proprio che ha meno corruzione nel mondo proprio. Vabbè, comunque è tornato, pare che quando sarà tornato vorrà dare il via alla rottamazione dei dirigenti locali, sta roba di Livorno proprio è rimasta qui, no? Ma anche Padova evidentemente, ma caro Vincino, però c'era anche il caldo ieri è stata una giornata caldissima, allora, questo influisce per le elezioni, diciamo. La gente non va a votare. No, preferisce stare al bagno sino a quando può, a Livorno. Ma come? Ma quelli di sinistra, che di solito questo penalizza la destra quando succedono queste cose, invece a sinistra vanno a votare. La destra e la sinistra, tanti anni fa, adesso, come dire, adesso sono al governo, sono governativi tutti là. Però devo dire che succedono cose strane. Per esempio, Massimo De Vanzoni, il sindaco più amato dagli italiani, no? In tutti i sondaggi, Alessandro Cattaneo, Pavia. PDL ha perso, manco riuscito a vincere a Pavia. Succedono cose strane, come li faranno? Faranno sì, anche perché appunto non fanno meno i sondaggi, ma lì, ecco, per esempio, lì l'astensionismo deve aver pesato tantissimo, perché al primo turno Catania quasi stava per passare al primo turno, no? Ha rischiato l'elezione diretta, senza quasi neanche il 50%. E invece poi il ballottaggio è crollata l'affluenza, evidentemente l'ha penalizzato. Ma certo, voglio dire, ma mi risulta che anche a Livorno il candidato di centrosinistra fosse al 48%, forse addirittura 49%, o no? Più o meno, 47%, no? Sì, al primo turno. Sì, al primo turno. Infatti sono state cose abbastanza sorprendenti. Certo, il risultato di Pavia avrà anche un'influenza nazionale, perché Catania è un astro nascente della politica di centrodestra in Forza Italia. Certo, quello che doveva essere non il rottamatore, ma come lo chiamavano? Il formattatore, perché a destra no. Adesso il formattatore è stato un po' formattato. Tutta d'arresto sicuramente. Sì. Vabbè, ma insomma, io non ho capito se Vincino è più. Questa cosa di Livorno l'hai digerita abbastanza bene. Assolutamente, no, ma io allora facciamo a capirci. Eccetto un affetto particolare per Renzi, così, perché l'ho visto ragazzino, no? Sta già prendendo le distanze. Le distanze, ma noi autorizzare che ci frega chi sta al governo e chi sta là. No, e puff, contro tutti e via, dai, sempre nel nostro anarchici sempre. Assolutamente, se no, se rimaniamo legati poi insopportabili le tradizioni, città da 70 anni, ma è un incubo, no? Vivere in una città che da 70 anni c'è la stessa amministrazione, uno che non è ben visto, è da suicidio, poveretto, cambia città, va a Pisa. Ma infatti il neo sindaco Filippo Nogarin del Movimento 5 Stelle ha detto: è come il crollo del muro di Berlino. Forse è un po' esagerato, ecco, lievemente si è fatto prendere la mano, però dice come il 1989, che dobbiamo fare? Massimo, succederà qualcosa adesso non è che una città può essere il simbolo di chissà cosa, però livornesi, fatevi sentire, dite qualcosa, scriveteci. C'è uno shock a Livorno, questo è sicuro, non è una cosa comunque, non è una cosa qualunque, è paragonabile a quello che è successo a Bologna 10 anni fa. Quando Guazzaloca. Infatti anche allora si parlò del muro di Berlino. Era più vicino negli anni magari. Era anche più vicino. Vabbè, sentite un altro Benigni, no? Abbiamo recuperato un altro Benigni da ieri, parlava con Scalfari, Benigni e Scalfari. Tutti voi sapete che Ulisse è uno che lasciato a casa e va con tutte le donne che gli capitano a tiro, è uno molto furbo, bravissimo a raggirare le persone, perseguitato, ha passato molto tempo nelle navi, ha avuto una storia con una ninfa che si è scoperto era la nipote di Poseidone, c'ha 7 ville a Itaca e c'ha il terrore di sentire le sirene da un momento. Non c'è il cane Dudù. Non c'è. Argu, Vincino, questo non è male, Argu, il cane. Diciamo sì, una delle prime battute di Scalfari in tutta la sua vita. Argu, cioè non c'era Dudu, ha detto Scalfari, no. Argu l'ha il detto Benigni. Argu, che lo riconosce. Argu, sì, Argu però l'ha trovato Benigni questo. Allora, vi voglio invece far sentire, sapete che si è votato, ed è già una notizia, si è votato a Casal di Principe. Dopo 2 anni di commissariamento si è votato, ha vinto Renato Natale era il sindaco quando uccisero Don Diana, e quindi si parla di vari anni fa. Poi dopo, quando ci fu l'uccisione di Don Diana, Renato Natale si dimise dalla politica, dice basta, e stavolta si è ricandidato e ha vinto. È un segnale molto forte contro la camorra, così pare, tanto che Renato Natale ha commentato così. C'è un messaggio che comunque vuole mandare alla parte non sana di questa città, che comunque continua a esistere, no? La parte non sana di questa città. Che messaggio vogliamo mandare alla parte non sana di questa città? Ma vaffanculo! Vincino, il messaggio, l'editoriale era abbastanza chiaro, stringato, no? Magari poteva spendere qualche parola in più, mettere un punto e virgola, però il messaggio è questo. E mi ricorda Zavattini. Quando sdoganò il cazzo là, il coso sì. Là, il coso. No, ma è bello, chiaro, che è stupendo. Questa è una delle cose più carine. Sì. Massimo De Manzoni, che dobbiamo fare? Questo è stato il dito. È grillino anche lui? No, dai, non è grillino. No, sembrava che fosse la parola d'ordine di grillo quella, no? No, vabbè, devo dire, lui ha una storia veramente molto di lotta vera e continua contro la mafia, no? Io posso capire, cioè, che dopo tanti anni, lui che ha visto l'uccisione di Don Diana, lui che è stato uno dei primi a vedere il corpo di Don Diana ucciso quando lui era sindaco, si disse anche un messaggio proprio nei confronti dell'amministrazione anticamorra, ha detto non farò mai più politica dopo questa cosa, alla fine ha trovato la forza di ricandidarsi dopo una lunga lotta, battaglia civile contro la mafia, ha vinto, e che deve fare? Cioè, si è lasciato andare un po' così. Vabbè, no, non è grillino comunque, non so, credo di centro-sinistra, no? Che è? Sì, vabbè, comunque insomma, questo è il suo messaggio ai casalesi, ma dopo ve lo faremo risentire. Dai, andiamo a sentire il traffico adesso, poi rientriamo. 24 mattino. Dopo tanti terribili fatti di corruzione, ma come pretendiamo noi italiani di rimanere nell'Europa civile? Non abbiamo il diritto di rimanere nell'Unione Europea? Assolutamente no! Il finanziamento illecito non è meno grave della corruzione, lo è infinitamente di più, perché finalizzato all'acquisizione del consenso elettorale. Capito ineffabile, onorevole Moretti, già bersaniana ed ora renziana di ferro? Non è l'occasione che fa l'uomo ladro, è il ladro che cerca l'occasione. Da Salerno, Reggio Calabria, è 50 anni che non riusciamo a andare fuori. E lì appalti ce ne sono a tonnellate, perché questo non si fa e invece nel Veneto si fa? Domando, è anche giusto farlo nel Veneto, ma questi qua come facciamo? Venezia, la luna è giù. Benvenuti soldi, è arrivata la cuccagna, qui col Mose magna. è triste Venezia. Ricordiamo brevemente che Dio, creando un mondo quadro, disse: l'uomo farà il ladro, perché Adamo, porca vacca, l'ho formato con la cacca. Milano è un gran Milano. Vabbè, Milano è un gran Milano, in onore della città, ovviamente. Allora, caro Vincino, di che... Il mondo quadro è delizioso, il mondo quadro prima di Milano, che è stato molto bravo. Mancavano i livornesi però, ma i livornesi, per ora i livornesi che devono, sono sotto shock, come dice Massimo De Manzio, sono sotto shock e quindi per ora non ci rispondono. Allora, invece a Bergamo ha vinto Gori. Gori, Massimo, hai visto, ha vinto Gori anche... Sì, questo era abbastanza previsto, è abbastanza previsto. C'è stato un piccolo problema al momento del voto, non so se hai sentito, perché la moglie Cristina Parodi adesso messa così può sembrare un po', non è che non sapesse per chi votare, però è entrata nell'urna e poi non sapeva se votare sul simbolo del partito o la crocetta sul nome, e allora si è trovata davanti all'urna. A questo punto è uscita dall'urna, si è riaffacciata per chiedere spiegazioni. Sentiamo Cristina Parodi. Il circolino, quello che vuole, basta che voti suo marito, voleva dire la presidente di seggio. Voti, scriva amore mio, non lo so, tesoro, basta che voti quello lì, insomma, su, signora Parodi, cosa doveva votare? Vincino, ha avuto un attimo di defiance. Diciamo un disastro, quella famiglia. No, come dire, il livello culturale, diciamo, che si sta abbassando. Ma cosa dici? Famiglia si chiacchiera, si discute là, solo il reality quelli là nell'isola là. Prendi due stecche, non lo so. Ci toccherà dopo chiamare Cristina Parodi e Cristina Vincino Fassati, la cerca di capirlo. Assolutamente sì, la realtà pure. Senti, io ho un problema invece. Magari non me ne sono, ma questo fatto qua che in Brasile ci sono i calciatori con tutta la famiglia, le mogli, così, e vanno tutti alla festa, all'ambasciata, al consolato, cioè, come dire, è un allenamento particolare. Ma cioè, perché sono stati, non lo so, sono stati ricevuti all'ambasciata? Hanno fatto festa, no, ma le mogli, tutti gli altri mondiali si portano sempre le mogli. Beh, hanno iniziato gli olandesi, dai, è una vecchia questione. De Manzoli vorrebbe tirar via le mogli, ci sono anche le WAGs, le competizioni tra gli inglesi, no? Qual è la migliore fidanzata, la migliore moglie? Massimo, dai, ci vuol togliere. Mamma mia, ma Vincino, mamma mia. Ma sei rimasta Silvio Piola, ma sei rimasta, non lo so, io non lo so, ma non lo so. Dai, Massimo, ci toglie il gusto di mettere sul sito di Libero tutte le foto delle migliori fidanzate che io mi guarderò sicuramente. Siete pronti? Siete aggiornati? Sì, sì, siamo prontissimi, ma quello lo faremo comunque anche se fossero rimaste in Italia. però effettivamente. Attenzione, c'è anche il nuovo che avanza, c'è anche il... E qui voglio poi coinvolgere appunto anche Vincino a capire, soprattutto il personaggio che ospita a casa. Si è insediato De Mita, Ciriaco De Mita, Annusco, e ha detto per tutti vale la questione biologica, ma io sono garantito dal Padre Eterno, e quindi con questo tipo di raccomandazione credo che possiamo stare tranquilli per i prossimi 15 anni, caro Vincino. Stai attento, Massimo, perché guarda che Vincino sono saggi, non è che hanno scelto, magari ci avevano uno, come dire. Attento, Massimo, perché Vincino lo stima tantissimo, De Mita. È quello che stima di più. Che uno dica che è protetto dal Padre Eterno, cioè, voglio dire. Vabbè, la vecchia democrazia cristiana, Come dire, ma anche la Costituzione. anche il presidente degli Stati Uniti si mette nelle mani del Padre Eterno. Eccoli, lo cercano tutti, è una cosa, come dire, antica questa qua. Ma in questo che ha detto durante la Rivoluzione Francese l'abbiamo abolita per un poco, no? Però fortunatamente adesso sta tornando, adesso sì. con De Mita fortunatamente ritorna in auge. A questo proposito, sempre cosa ha detto il busto di Andreotti per l'insediamento di De Mita? Ma un po' di invidia, non ha detto niente, dovrei affacciarmi fuori e vedere che faccia che fa. No, però non ha, è inespressivo, non c'è mai corso buon sangue o buon marmo tra loro due. E appunto, un po' di invidia la proverà. Ma lui se n'è andato quanto? A 105 anni, non è che poi insomma la sua... ho capito, ma gli ultimi anni sono stati un po' faticosi per Andreotti, mentre questo è sindaco. Vabbè, però gli hanno risparmiato di fare il sindaco di Frascati a Andreotti, non è che era là tranquillo al Senato, ha rischiato di diventare il presidente del Senato e per fortuna non ci è riuscito. Vabbè, comunque c'è una nota di servizio per chiudere per Massimo De Manzoni, grande tifoso del Chievo. Il Chievo è in finale del campionato primavera. Lo sapevi, Massimo? Nonostante l'arbitro contro, ci fa sapere un ascoltatore. No, dell'arbitro contro non sapevo, sapevo che però si stavano battendo, che vuol dire che il vivaio funziona, che è l'unica cosa che può funzionare. Siete in finale, forse arriva lo scudetto al Chievo. Vabbè, festeggerà Massimo De Manzoni con i clacson per le strade. Cioè, no, com'è che festeggerai, Massimo? Sì, festeggerai. Festeggeremo con quelli di Livorno e con quelli di Alita Tsipras, che io mi sto appassionando per Barbara Spinelli, è un altro capitolo. Affronteremo anche questo nei prossimi giorni, ma vi devo salutare, Massimo De Manzoni e Vincino. Grazie, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora alle 7:17 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori e ben svegliati debosciati d'Italia che vi aggiungete solo ora, qua ridono, è così, sono debosciati. Quelli che arrivano adesso, ma li accettiamo con grande orgoglio, grande dignità e grande affetto e abbracci. Allora, oggi parleremo e torneremo ancora a concentrarci su quello che sta succedendo a Venezia, sul tema della corruzione. Mi ha molto colpito sapere che in Italia, come ci ha detto la scorsa settimana Raffaele Cantone, qui ai nostri microfoni, ci sono forse due persone in carcere per corruzione in Italia in questo momento, con sentenze definitive, e forse due è anche un numero esagerato. Perché in Italia non si va in carcere per questo tipo di reato? Poi torneremo anche in Sicilia, dove vi ricordate abbiamo parlato degli stipendi, abbiamo parlato delle polemiche per il vitalizio all'ex presidente della regione Cuffaro che si trova in carcere in questo momento. Avremo ospite e tornerà con noi il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il Parlamento siciliano, Giovanni Ardizzone. Questa è alle 8:45, perché ci sono forse delle novità. Hanno deliberato dei tagli agli stipendi, ma certo ha fatto scalpore sentire che uno stenografo della regione Sicilia può arrivare a guadagnare fino a 200.000 euro l'anno a fine carriera. E com'è possibile questo? Lo chiederemo al presidente dell'ARS. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 9 giugno, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sul conto di Tasi e IMU, caccia a 10,5 miliardi. Questo è il titolo di prima pagina. E poi ovviamente le amministrative. Ieri ci sono stati i ballottaggi con le elezioni di vari sindaci. La novità più importante forse è la sorpresa a Livorno, dove è nato il Partito Comunista, dove per 70 anni la sinistra è stata al governo, ha vinto il Movimento 5 Stelle con il sindaco Filippo Nogarin. Forse questa è la sorpresa più inaspettata. Comunque i titoli, Corriere della Sera, sorprese nel voto, frenata del PD, questo è il titolo. Per Repubblica, il Nord al PD, Livorno a Grillo. La Stampa, ballottaggi, Grillo strappa Livorno al PD. Il Messaggero, il PD tiene, sorpresa a Livorno. Mentre l'Unità mette questa parola, il PD tiene, ferita a Livorno. Ecco, questa parola ferita fa capire quanto bruci certamente al centro-sinistra la sconfitta di una città controllata ininterrottamente per 70 anni. Per il Giornale invece il titolo è il paese dei furbetti, giudici col doppio stipendio, 1000 magistrati hanno un secondo lavoro. Questa è la prima pagina del Giornale, mentre l'apertura del Fatto Quotidiano è un'inchiesta, l'edizione del lunedì è dedicata più agli approfondimenti, dentro gli occhi di Gomorra insieme a Marco D'Amore, che è il protagonista della serie TV Gomorra, che sta avendo molto successo su Sky. Il Fatto Quotidiano ha fatto un viaggio tra le vele di Scampia per raccontare quella realtà. Realtà invece che viene raccontata, è stata raccontata, da qui voglio partire nella lettura dei giornali, da un medico anestesista che ha fatto scalpore ieri con un'intervista all'Unione Sarda, che viene ripresa oggi con una nuova intervista alla Stampa. Questo dottore si chiama Giuseppe Saba, ha 87 anni, è in pensione dal 1999, ha fatto molto scalpore perché ha rivelato: ho aiutato a morire almeno un centinaio di pazienti gravi. Si parla di vera e propria eutanasia, anzi lui in un'intervista alla Stampa dice: io la chiamo dolce morte, perché c'è una grande differenza, può sfuggire, ma sono due pratiche molto diverse. Ma certo, questo medico che ha deciso di parlare ora ha conquistato molte pagine sui giornali e rilancia l'ennesimo dibattito sul tema eutanasia. Ho aiutato a morire 100 malati, questo per esempio è il titolo di pagina 17 del Messaggero, che dedica una pagina, questo è anche il commento di Lucetta Scaraffia. E anche il Giornale: un medico si confessa, ho dato la dolce morte a centinaia di pazienti. E questo medico, Giuseppe Saba, viene intervistato da Nicola Pinna sulla Stampa, l'intervista la trovate a pagina 13. Dice: ho iniziato con mio padre e poi mia sorella. Come ho iniziato a aiutare i pazienti a morire? Facendo l'anestesista ho addormentato migliaia di persone, in un centinaio di casi sono andato oltre. Capite che dopo queste dichiarazioni la Procura della Repubblica di Cagliari ha già aperto un fascicolo, scrive la Stampa. L'ho fatto ogni volta che era necessario, ma non ho un elenco. Non mi sono mai pentito, anche perché erano i pazienti a chiedermi di intervenire. In tutte le situazioni non c'era altra via d'uscita. Non sempre un malato arriva in ospedale in stato vegetativo, in ogni caso è possibile esprimersi con gli occhi, con gli stati d'animo. Ci sono tanti modi di farsi comprendere, tutti si stupiscono di questo metodo, ma il vero problema è che in Italia ancora non si è capito cos'è il dolore. Nessuno lo ha studiato, in pochi sanno quali sono le differenze e cosa lo determina. Lei ha mai detto ai parenti dei pazienti quello che avrebbe fatto? Qualunque decisione è stata presa col consenso dei parenti, talvolta dopo una loro accorata richiesta, spesso con un'espressa autorizzazione. La cosa più importante è fare il bene del malato, aiutarlo a morire soffrendo il meno possibile. Il modo più semplice è quello di aumentare la dose degli analgesici, somministrare una quantità superiore di morfina, di certo non è reato, ma può bastare. Altra possibilità è somministrare un farmaco che blocca la respirazione. Le benzodiazepine sono le più vendute al mondo. I malati che ho aiutato a morire sono quelli con la SLA, la patologia di Pier Giorgio Welby. Le terapie a cui questi pazienti sono sottoposti sono la chiara dimostrazione che talvolta non c'è altro rimedio se non quello di interrompere le sofferenze. E ancora conclude questa intervista questo ex primario: questa pratica è molto consolidata in tutta Italia, ma per ragioni di conformismo non se ne parla. Gli unici che alzano la voce sono gli esponenti di frange dell'estremismo cattolico rigido e confuso. parlo ora perché non ne posso più del silenzio su cose che sappiamo tutti. E beh, insomma, è certamente un'intervista che farà discutere, e non solo, non è la prima in questo caso, di medici che rivelano queste pratiche. Farà discutere e farà anche parlare alla Procura di Cagliari, dove appunto la stampa, ricorda, è stato aperto un fascicolo dopo queste dichiarazioni. È invece una vicenda di cui ci siamo occupati, quella che riguarda la morte di Riccardo Magherini. Noi ce ne siamo occupati, vi ricordate forse, l'uomo che morì nella notte tra il 2 e 3 marzo scorso a Firenze, dopo un fermo dei carabinieri, perché i familiari, noi ospitammo il fratello di Riccardo Magherini, i familiari dicono che quel fermo fu fatto in modo aggressivo, e c'è un'inchiesta in corso, ci sono 4 carabinieri indagati per capire se appunto c'è un nesso tra il fermo e la morte di Riccardo Magherini. Ebbene, perché oggi se ne parla? Goffredo Buccini sul Corriere della Sera racconta, pagina 21, in un'intera pagina, la decisione dei familiari di Magherini. La famiglia di Magherini oggi sarà alla festa dei carabinieri. Siamo lì per gli onesti. La voce è appena velata, l'arma è di tutti, dice Andrea Magherini. Nostro nonno Clemente era un grande carabiniere. Questo lo ricordò anche quando fu ospite qui a 24 mattino. E allora, perciò noi altri di famiglia andiamo oggi alla festa dell'arma. 4 carabinieri sono indagati per la morte del fratello. Nella follia di quel buco nero c'erano anche loro. Omicidio preterintenzionale, ipotizza il PM Bocciolini. Tradotto vuol dire che secondo la procura è possibile che volessero far male a Riccardo ma non ucciderlo. Eppure stamattina Andrea, assieme a papà Guido, varcherà il portone della caserma Baldissera per festeggiare il bicentenario dei carabinieri. E dichiarano: noi pensiamo che sia la festa dei tantissimi carabinieri che fanno bene il loro mestiere tra la gente, non di quei 4. Quei 4 sono difesi con convinzione dal loro generale Alberto Mosca, comandante della Legione Toscana, che ha dichiarato: persone oneste, padri di famiglia, fino a prova contraria non hanno pestato nessuno, si è voluto avviare un procedimento mediatico. Dopo queste frasi i familiari di Riccardo Magherini hanno detto: beh, certo, non sono dichiarazioni che ci hanno fatto piacere, ci hanno amareggiato, mi sono sembrate dichiarazioni poco appropriate. E al comandante generale Gallitelli il fratello vorrebbe chiedere un altro segnale, che l'arma sia vicina alla famiglia e garantisca che si faccia chiarezza, che l'arma sia dalla parte della gente, perché Riccardo poteva essere il figlio o il fratello di chiunque invocava aiuto, e se quei 4 hanno sbagliato devono pagare. Insomma, la decisione della famiglia di Magherini di andare alla festa dei carabinieri, nonostante 4 carabinieri siano indagati per la morte del loro fratello. Queste le vicende della cronaca. Per parlare invece di cronaca e politica insieme, beh, è la prima volta che parla Barbara Spinelli. Barbara Spinelli, e qui ci introduce alla questione politica che poi affronteremo dopo la pubblicità con la questione dei ballottaggi. Barbara Spinelli è al centro di un caso spinoso, si potrebbe dire, all'interno della lista Tsipras, perché Barbara Spinelli aveva detto: in caso di elezioni lascerò il posto a qualcuno più giovane di me all'Europarlamento. Invece, dopo un travaglio, dopo una sofferta decisione nella sua casa parigina, ha deciso di rimanere e mantenere il seggio all'Europarlamento. Ovviamente grande sdegno di chi non è, di chi aspettava di prendere il suo posto, come il rappresentante di SEL Furfaro, che ha detto: ci sta trattando da carne da macello, senza nessuna cura per le persone, in una lista che recitava prima le persone. Così si è sfogato Furfaro, che aspettava di prendere il seggio all'Europarlamento al posto di Barbara Spinelli, la quale, dopo un silenzio assolutamente ermetico appunto da Parigi, parla a Repubblica. Lei è anche un editorialista di Repubblica, figlia di Altiero Spinelli, con questa allure impressionante e davvero commovente, fa questa intervista, insomma le domande non è che sono pungentissime, da parte di Alessandra Longo su Repubblica, pagina 15, vado in Europa per tutta la sinistra. Ha una decisione tormentata, sì, tormentata. Inizialmente non intendeva andare in Europa, ma sono rimasta sorpresa dal numero di preferenze che ho preso e dalle forti spinte ad accettare il mandato. Beh, ma Sel ha avuto un rigurgito identitario? Questa è una domanda di Alessandra Longo. Perché lo considera il suo candidato e non della lista? Sel sta vivendo una profonda crisi. Non sa decidersi tra Tsipras e Schulz, ma questo è un problema di Sel. E verrebbe da dire, sì, ho capito, ma perché tiene la poltrona, cara signora Barbara Spinelli? Il risentimento nei suoi confronti in queste ore è forte. E lei risponde: mi si accusa di essermi chiusa in una torre d'avorio a Parigi, di avere deciso da sola, di aver scelto tra centro e sud, trattando i candidati arrivati dopo di me come carne da macello. È falso e ingiusto. Tra il voto e la decisione finale non c'è stato il vuoto, ma un pieno di contatti, negoziati dei garanti coi partiti che esprimevano le candidature. Fallite le trattative, qualcuno doveva pur decidere su invito dei garanti, l'ho fatto io. Insomma, bellissime parole, come si conviene all'altezza del suo ruolo e anche appunto alla storia politica e culturale a cui appartiene. Barbara Spinelli, stringi stringi, dice: la poltrona all'Europarlamento me la tengo. Alessandro Mila, il Mauro Meazza dell'informazione. Tra poco ci sarà Mauro Meazza, quello sporco interista, ai nostri microfoni. Si fa per scherzare a dire interista. Allora, i ballottaggi ieri, questa è stata certamente una giornata con qualche sorpresa, come raccontano tutti i giornali. Ballottaggi a sorpresa, questo è il titolo che si trova più spesso a commento. Un primo turno elettorale che aveva visto una netta affermazione del PD di Renzi, scrive il Corriere, anche sulla scia del voto europeo. E invece, per esempio, Livorno, roccaforte rossa, tradisce il PD e diventa il secondo capoluogo governato dal Movimento 5 Stelle dopo Parma di Pizzarotti. I Democratici invece, dunque il centro-sinistra, strappa però al centrodestra Pavia, Bergamo e Pescara, mentre si riconfermano a Bari ma perdono Perugia, che passa invece a un sindaco di Forza Italia. E infine sorpresa anche a Padova, dove il PD perde il comune e in questo caso vince la Lega con il senatore Bitonci. Dunque, diverse sorprese, certamente quella più inattesa è quella di Livorno. Tutti i giornali si concentrano su questa vicenda. L'Unità titola: ferita. Questo è il titolo e la parola usata in prima pagina. Il PD tiene ferita a Livorno. Andrea Senesi racconta, pagina 5 del Corriere della Sera, l'esordio del neo sindaco del Movimento 5 Stelle Filippo Nogarin, 44 anni, è questo. È come il 1989, come la caduta del muro di Berlino. Con le lacrime agli occhi per la gioia, forse l'attivista grillino esagera con la storia. Come Guazzaloca a Bologna, suggerisce un altro, no? Ricordate Guazzaloca che strappò a Bologna al centro-sinistra. Una sconfitta inattesa, quella del candidato del centro-sinistra, che ha dilapidato il patrimonio dei 20 punti di vantaggio che aveva al primo turno. Il PD perde Livorno, la città dove è nato il Partito Comunista. L'uomo che ha liberato la città arriva in municipio dopo mezzanotte, a piedi, zainetto verde sulle spalle, coi militanti intorno che urlano l'ormai collaudato "tutti a casa". "Stateci vicino perché ne vedrete delle belle", sussurra più intimorito che esaltato Filippo Nogarin. Grillo non l'ho ancora sentito. "Ottimisti? No, non siamo ottimisti, siamo realisti. Questa città ha voglia di cambiare". E dunque questa è la vittoria di Livorno, mentre a Padova, ripeto, ha vinto la Lega, e a Perugia Forza Italia. Sono tre città che certamente costituiscono tre sorprese per il Partito Democratico, tanto che Renzi ha iniziato una missione che lo porterà oggi in Vietnam, poi in Cina, poi in Kazakistan, al seguito anche delle al seguito suo le imprese, insomma, per rilanciare l'economia in Estremo Oriente. Ebbene, però a Renzi vengono già attribuite queste frasi. Secondo il Messaggero, il titolo a pagina 4 è questo: ricreazione finita. Questa è la sensazione di Renzi, racconta Alberto Gentili. La ricreazione è finita, ora ventre a terra e pedalare. Le riforme non possono più attendere. Dopo il risultato in chiaroscuro dei ballottaggi, Renzi torna a premere sul pedale dell'acceleratore. Il tempo stringe, tra 20 giorni si celebra un Consiglio europeo molto importante. Tra un mese scatta il semestre italiano di presidenza dell'Unione. E Renzi vuole arrivare al doppio appuntamento con le carte in regola. Quella che lui definisce è la partita della vita. Se sbaglio, sbaglio io e me ne vado a casa. Da qui la determinazione a non perdere un colpo. Il primo fronte è quello della legge elettorale. Qui devo aprire la mia parentesi. Siamo ormai ufficialmente aperta la 58esima settimana decisiva per la riforma elettorale. E poi ovviamente anche le altre riforme. Insomma, un Renzi che capisce, racconta anche il quotidiano Repubblica con Goffredo De Marchis in un retroscena pagina 4 e 5, le ferite nelle città rosse riaprono la sfida dei renziani alla vecchia guardia Dem. È una frenata quella che è uscita dalle urne ieri rispetto al trionfo di 15 giorni fa. Renzi dice, secondo Repubblica, del record mi è sempre interessato a poco, il risultato delle europee unito a quello delle amministrative non può essere messo in discussione. Ma anche il Corriere della Sera racconta che la volontà di Renzi, proprio tornato dalla missione in Asia, sarà quella di rottamare i quadri locali. Così Monica Guerzoni a pagina 3 del Corriere: i renziani e l'effetto inchieste ora rottamare i quadri locali. Una stanchezza che contagia gli elettori ai ballottaggi, Renzi l'aveva prevista. Il quotidiano L'Unità parla di ferita per Livorno. Hai voglia a dire che i comuni ai ballottaggi erano pochi e che dunque il valore nazionale della competizione è scarso. La frenata del PD c'è stata, le conseguenze arriveranno presto. Continua il Corriere: quando tornerà dalla missione tra Vietnam e Cina, Renzi metterà la testa sui problemi del territorio e i suoi prevedono una rivoluzione che fa rima con rottamazione. Dice già Renzi: ci vuole gente nuova anche nelle città. E conferma il responsabile comunicazione del PD Francesco Nicodemo: la rottamazione è solo iniziata. Questo è il primo commento ai ballottaggi. Poi magari domani parleremo anche noi di cosa può succedere dopo questa vicenda. C'è anche molto sui giornali dedicato alla questione Mose, le inchieste eccetera. Prima però vorrei salutare Mauro Meazza. Buongiorno e buona settimana, Mauro. Come buongiorno, stai? Buongiorno, anche sei a pronto? Te e a tutti gli ascoltatori. Sei pronto per i mondiali? Sì. Sono nato pronto. Sei sì. Nato sono, pronto. Sono Jena nato, Plinske. Ma tu non sei nato pronto, no? Sì, sì. No. Jena Plinske. Se ti stai già studiando il Jobs Act, il libretto che diamo oggi con il Sole 24 Ore. Come libretto, no? Insomma, adesso non vorrei mancargli di rispetto. Un instant book con i fiocchi, caro Alessandro, cui ti spieghiamo sia cosa cambia col decreto Poletti e sia che cosa ci aspettiamo dal disegno di legge delega, quindi insomma tutte le misure nuove per il lavoro a termine, l'apprendistato e quant'altro. Che a termine c'erano, cioè non che ti cacciano, no? No, insomma, no, speriamo di no, o speriamo così, speriamo di te e non di me in qualche modo, come si diceva. Ma volevo dire, è un libretto che trovi insieme al Sole 24 Ore oggi in edicola. E poi naturalmente la sciarada, la grande sciarada dell'Attari, della Tasi. Mm-hmm. Sei pronto? Non ti interrogo. No, è l'apertura del Sole 24 Ore, quindi la ma infatti l'avevo sospettato, ti dirò la verità. Diciamo che non ti interrogo perché non voglio che tu faccia la cattiva figura davanti alla nazione, però sappi che il 16 giugno si avvicina, mancano 7 giorni, la questione non è semplice, quindi ti conviene studiare. Saranno 7 giorni lunghissimi, lo so. Stai su la notte, bevi caffè, insomma, fai di tutto per non farti trovare impreparato all'appuntamento del 16, cominciando a leggere il Sole 24 Ore di oggi. Se poi non hai più voglia di questo nostro, di questa nostra liaison, io ti consiglio di approfondire le questioni sul divorzio breve. Ah, si può anche fare, esatto, potremmo sì, divorziare. Potremmo fare un brevemente. Divorzio breve, dovremmo forse sposarci prima, che sì. Mi sembra un po' più difficile, però... Era di sti tempi, si può fare tutto ormai. Sì, ma c'è un problema di codice civile, vabbè, non stiamo a sottilizzare. Però sono 200.000 le coppie, città per città, presentiamo anche... tribunale per tribunale quante sono le coppie che potrebbero giovarsi appunto dell'abbrevio dei tempi per il divorzio. E poi c'è una tua bella foto, pagina 31, l'hai vista? Ah, no, piccolina, piccolina, l'abbiamo messa in piccolo per non turbare soprattutto le giovani menti, però ce l'abbiamo messa, non abbiamo avuto anche questo coraggio. Ti è capitato di comprare casa già sulla carta, cioè in costruzione? Perché se ti capitasse, se ci dovesse capitare, vai nella parte di norme e tributi, perché ti spieghiamo di quale garanzie puoi usufruire se fai questo tipo di acquisti. E va bene, e allora, caro Mauro, che dobbiamo dire? Devo dire solo una parola, mi sembra, a questo punto. Solito io a questo punto dico solo una parola. Una parola, vai. Una parola. Traffico. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Allora, come detto, nuove vicende, nuovi articoli ancora sulle tangenti o presunte tangenti in Veneto, le indagini legate al consorzio del Mose. Spunta un nuovo nome di un nuovo ex ministro, cioè un altro ex ministro, questa volta dopo la volta di Giulio Tremonti, dopo Galan. Spunta anche dopo Matteoli, spunta l'ex ministro Lunardi. Il consorzio del Mose e i politici amici aiutai Lunardi per un indennizzo. Questo è il titolo di pagina 10 del Corriere della Sera. Baita, che è uno degli indagati, in uno dei verbali secretati nei quali ha raccontato ai PM le mazzette distribuite ai politici, tira in ballo l'ingegner Lunardi, che non è indagato, a proposito di una singolare vicenda sulla quale gli inquirenti stanno cercando conferme. Parla della società Rocksoil, che si occupa di ingegneria civile e fa capo alla famiglia dell'ex ministro Lunardi, di un lavoro che sarebbe stato realizzato versando 500.000 euro più del dovuto. Così racconta Andrea Pasqualetto nel suo articolo. C'è da dire che appunto Lunardi è solo l'ultimo degli ex ministri tirati in ballo nell'inchiesta, anche se non indagato, come non è indagato Tremonti, che però è stato tirato in ballo perché per presunti soldi dati a un suo collaboratore milanese. Tanto che La Stampa racconta a pagina 7 con Ugo Magri: Tremonti respinge i sospetti, viene attribuita a lui la frase "maledetto il giorno in cui incontrai Milanese". Racconta La Stampa: sono già tre volte che Milanese lo mette in cattiva luce. La prima fu quando Paolo Viscione, imprenditore nei guai col fisco, sostenne di aver chiesto soccorso a Milanese in cambio di una Ferrari, una Bentley, di 4 orologi. Il secondo incidente fu la famosa casa di via Campo Marzio, data in affitto a Tremonti dal solito milanese. Pure lì scambi di favore con privati, il ministro non ne risultò al corrente, ma quando la cosa venne fuori scoppiò uno scandalo. Il nuovo guaio sembra più serio: ben 500.000 euro percepiti da Milanese in contanti e dentro una scatola da scarpe. Questo quantomeno l'accusa formulata nei suoi confronti. Ed ecco allora che Tremonti, che non è indagato, avrebbe detto "maledetto il giorno in cui ho incontrato Milanese". C'è da dire che anche Stefano Zurlo sul Giornale si concentra proprio e fa una critica agli altri giornali che, in qualche modo, dice Zurlo, hanno un po' sputtanato fino a questo momento con le inchieste altre persone. Rispunta il solito vizietto, scrive Zurlo, il preavviso di garanzia. Anche l'inchiesta sul Mose mette in circolazione frammenti di verbali, indiscrezioni, presunte anticipazioni di nomi eccellenti che potrebbero finire nel vortice. Da giorni due pezzi da 90 come Giulio Tremonti e Gianni Letta entrano ed escono dai giornali. Secondo la monumentale ordinanza del GIP di Venezia si trovano riferimenti ai due personaggi, anche se poi la stessa magistratura a ricordare che Letta e Tremonti non sono indagati. Ma scrive Zurlo una notizia che che non ferma il rullo di informazioni, allusioni, citazioni. E racconta il giornale quel preavviso di garanzia ai big politici non indagati. Per esempio, anche Repubblica oggi scrive in un articolo a pagina, in prima pagina, che continua a pagina 8, il titolo è Il colore delle tangenti, Mose, ecco il manuale per comprare i politici, usavano nomi in codice bianco, nero, nero bianco, e tra i beneficiati spuntano altri due deputati del PD, si aggiungono tra i beneficiati appunto di finanziamento i deputati Delia Murer e Andrea Martella, rieletti nelle politiche del 2013, anche loro, scrive Repubblica, avrebbero avuto finanziamenti per sostenere la campagna elettorale delle ditte che lavoravano al Mose, ma in bianco, specificano i PM, cioè leciti e registrati, accettati però quando già il consorzio Venezia Nuova era chiacchierato. Questo scrive Repubblica. Sta di fatto che poi nasce anche un nuovo filone, come racconta Corrado Zunino, e cioè questo, a pagina 10, a Orsoni, cioè il sindaco di Venezia, serviva il voto dei cattolici. Ecco dunque la pista dei fondi neri dirottati sulla curia. Secondo Repubblica, Orsoni agli arresti domiciliari nega di aver ricevuto 450.000 euro in nero, ammette solo finanziamenti registrati, cioè 110.000 euro. L'idea è che i 450.000 euro che il supremo tessitore Giovanni Mazzacurati sostiene di aver dato al sindaco di Venezia avrebbero alimentato il voto cattolico alla vigilia delle elezioni 2010, quando Orsoni era sfavorito rispetto all'avversario del PDL, vale a dire l'allora ministro Renato Brunetta. E vabbè, ci sono tanti articoli di corruzione, comunque parleremo più avanti. C'è anche tanta cronaca, come i nuovi sbarchi, altri 6.500 migranti sono arrivati in 4 giorni, racconta La Stampa. Tra l'altro 5 invece non ce l'hanno fatta perché c'è stato uno speronamento, per errore da parte di una nave maltese che ha speronato un barcone di migranti, 3 morti e 2 dispersi, quindi probabilmente 5 morti in questo tentativo di salvataggio. E La Stampa racconta davvero non si fermano questi arrivi. Mentre il giornale apre con lo scandalo del doppio lavoro, i 1.000 magistrati, cioè o meglio i centinaia di attività extragiudiziarie che riguardano i magistrati da novembre a maggio, racconta Stefano Sansonetti a pagina 3, centinaia di magistrati hanno la busta più ricca, sono 1.000 circa, un festival di incarichi extragiudiziari per un cospicuo numero di toghe italiane. A quanto pare la cuccagna non accenna a finire, perché negli ultimi tempi sono fioccate letteralmente le collaborazioni che i magistrati riescano a ottenere da un'infinità di enti pubblici e privati. Inutile dire che tutti questi lavori extra svolti, cioè al di fuori della missione tipica di giudice pubblici e ministeri, si portano appresso un bel corredo di compensi che vanno a accumularsi ai già lauti stipendi. Quindi racconta il giornale quello che viene definito lo scandalo degli incarichi extragiudiziari dei magistrati. C'è anche molto ovviamente del commenti e cronaca della preghiera nei giardini vaticani che ha unito il presidente israeliano Shimon Peres, il presidente palestinese Abu Mazen, il Papa e il patriarca Bartolomeo I. Ci sono queste foto e anche commenti per tentare di rilanciare l'accordo sulla pace in Medio Oriente. E vi segnalo solo un bell'articolo dalla Cina, è sul Corriere della Sera, pagina 17, Guido Santevecchi. È un viaggio nella fabbrica di Adidas e Nike dove la Cina ha imparato a scioperare. 20 giorni di proteste sono i primi scioperi, si parla di una nuova Solidarność anche per la Cina. Nelle ultime settimane 45.000 operai in sciopero dell'azienda Yue Yuen di Dongguan, che costruisce appunto fabbrica materiale poi utilizzata da Adidas e Nike, è il primo produttore al mondo di scarpe sportive, 7 impianti per 1,4 milioni di metri quadri, 320 milioni di paia all'anno di marchi che vengono prodotti, è la protesta operaia più imponente nella storia del Guangdong, e il Corriere della Sera va a incontrare i leader di questa protesta e trovate il bel resoconto a pagina 17. E poi siamo al momento conclusivo, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince il giornale ancora con Eleonora Barbieri che racconta i consigli per vivere bene. Sapete che dovete fare? Mangiate in compagnia, come in Brasile. Oppure fate cene frugali, come in Messico, il che non si concilia. O fate un po' di meditazione, come in Cina, mangiate frutta secca, come in Gambia. Fate come in Gambia, mangiate la frutta secca. Andiamo al giornale radio, va. Mattino. Sono le 8 e 21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Anche oggi i giornali raccontano nuovi dettagli della corposa inchiesta della Procura di Venezia sul presunto sistema di tangenti creato attorno alla realizzazione del MOSE. Racconta per esempio oggi Sergio Rizzo sul Corriere della Sera: non c'è opera pubblica d'Italia la cui vicenda non sia scandita da ritardi, costi altissimi, ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato e anche da inchieste. La corruzione costa in Italia, secondo alcune stime, 60 miliardi, secondo altri di più. Siamo un popolo portato alla corruzione, altre volte si sente dire. Ieri però Giampaolo Pansa su Libero scriveva questo: sono decenni che nella politica si susseguono scandali di tangenti e forse se non si riesce a tenere a bada i corruttori, provocatoriamente verrebbe da dire lasciamoli fare, insomma legalizziamo le mazzette. Una provocazione forse o chissà, ma vorrei partire da qui per fare due chiacchiere oggi con Bruno Tinti, ex magistrato e firma del Fatto Quotidiano, che recuperiamo tra un attimo perché è caduta la linea. Saluto anche Roberto Giardina, intanto corrispondente da Berlino per il Quotidiano Nazionale. Giardina, buongiorno. Buongiorno a voi. Perché vorrei capire in Germania cosa succede, tra poco lo capiamo, spesso viene messo a parametro, a riferimento la Germania come paese nel quale certe cose non accadono come in Italia. Io vorrei però far sentire che cosa. Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera citava la scorsa settimana questa statistica. In Italia ci sono 156 detenuti, cioè lo 0,4% dei carcerati, per reati di tipo economico. Questa è la percentuale. Prima fatemi salutare allora Bruno Tinti, che l'abbiamo recuperato. Dottor Tinti, buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo da questa statistica, perché quando ho citato a Raffaele Cantone, che è presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, venerdì avevo ospite qui, questa statistica di Giantolo Stella, cioè 156 detenuti per reati di tipo economico, sentite la risposta di Cantone. Io credo che le statistiche di Stella, che diciamo è una persona che su questo punto ha sempre scritto cose per fortuna in tempi diciamo anticiclici bellissime, siano persino esagerate in più. Io non ci credo che ci sono 156 detenuti per reati economici, io credo che siano ancora molto meno per la verità. Fra prescrizioni, sospensioni condizionali della pena, affidamenti in prova post condanna, diciamo in carcere non ci va praticamente nessuno. Io faccio fatica a credere che in questo momento ci siano più di due detenuti per corruzione in Italia. Più di due? No, certo. Due è persino un numero esagerato. Due è perfino un numero esagerato. Bruno Tinti, insomma, tanto vale legalizzare le mazzette e depenalizzare tutto, perché tanto in carcere non ci va più nessuno? Beh, prima di tutto è vero, non ci va più nessuno. Quel numero che ha dato Stella sicuramente risulta dalle statistiche ufficiali, ma bisogna considerare che le statistiche ufficiali considerano il titolo del reato, voglio dire, uno che è dentro per rapina e anche per frode fiscale e poi ha fatto una corruzione, risulta dentro per corruzione, ma la verità è che se fosse solo per corruzione in prigione non ci sarebbe andato, lui in prigione ci è andato per rapina e poi può essere che sia stato condannato per corruzione, ma naturalmente non c'è andato perché ha avuto la sospensione condizionale della pena in prigione. Ma perché non si va mai più, cioè si dice non si va per corruzione in carcere in Italia, perché? Perché il reato... Ma è sempre semplice, perché c'è, la legge è congegnata in questo modo: se fino a 4 anni in prigione non ci si va perché si è affidati in prova al servizio sociale, oppure si fanno i cosiddetti arresti domiciliari. Ma la verità è che insomma fanno tutti la fine di Berlusconi, no? Si va a fare qualche stupidaggine in giro per... così, per far finta che si esegue la condanna. E la corruzione è punita fino a 7 anni, vuol dire che sostanzialmente per ogni episodio di corruzione bisognerebbe dare il massimo della pena, perché ogni pena fino a 4 anni automaticamente non sarà scontata in carcere. Sì. Ora questo non succede. Nessun magistrato ha mai dato fino adesso il massimo della pena. E tanto vale, tanto vale, come scrive Panza, allora legalizziamo tutto, visto che non si riescono a mettere le regole per contrastare la corruzione. Invece di legalizzare tutto, per esempio, si potrebbe abolire queste leggi ridicole fatte prima dalla Severino e poi dalla Cancellieri. Si potrebbe cominciare a dire che chissà perché uno che viene condannato a 3 anni di prigione non deve andare in prigione. Mi pare più ragionevole dire che chi è stato condannato a 3 anni di prigione vada in prigione come in qualsiasi altro paese. Cioè, invece paese. Che più laschi, essere più severi. No. No, non più laschi, ma più severi, lei dice. Direi proprio. Sarebbe molto ragionevole. E poi basterebbe cominciare a ragionare in termini di prescrizione. Per esempio, Galan si dice che ha preso tangenti, quel suo stipendio di 1 milione all'anno, a far data dal 2006. Benissimo, siccome la prescrizione si prescrive in la corruzione si prescrive in 7 anni, vuol dire che, visto che oggi siamo nel 2014, gli episodi, gli stipendi del 2006 e sono del 2007 sono già prescritti. Quindi, e ancora si deve cominciare. Quindi non si è ancora iniziato, ma fosse anche tutto confermato, ciò che è successo nel 2006-2007 potremmo anche non iniziare a fare un eventuale processo. Tenga conto che comunque, avendo per quello che si comincia, i termini sono 7 anni più un quarto, quindi diciamo 3 e mezzo, un anno e 8 mesi, quindi 8 anni e 8 mesi. Sì. In 8 anni e 8 mesi bisogna ancora fare tutte le indagini, si figuri, le indagini del MOSE, non è come una rapina, no, naturalmente. E poi dopo le indagini bisogna fare il primo processo. Grado, il secondo grado della Cassazione. Vabbè, è tutto già finito, ancora prima di iniziare. Capisce? Io vorrei capire tutti questi discorsi osservati, ascoltati da Berlino, da un giornalista, un collega che è sempre molto attento a raccontare quello che succede in Germania, ma anche quello che succede in Italia, di riflesso è da lì, Roberto Giardina. Che effetto fanno? E che ha un orecchio abituato a quello che succede in Germania, spesso usato da noi metro di paragone per capire lì le cose funzionano. Giardina, che ne pensi? Diciamo che qui si sottolgono poco, perché purtroppo ci sono abituati, dicono sempre la solita Italia, quindi qui è un po' offensivo, ma insomma anche questa specie di disinteresse non fa più tanto notizia. Naturalmente Venezia fa notizia. Io non so quanti sono i detenuti per corruzione in Germania, perché i dati sono anche regionali, ma io so soltanto che ci sono 150 berlinesi che stanno in momento in galera, magari per qualche giorno, solo perché hanno viaggiato senza pagare il biglietto sulla metropolitana. Naturalmente non è il primo caso, la seconda, terza, quarta volta che c'è. Questa dobbiamo ridirla. Cioè, in Germania ci sono delle persone che sono in carcere per qualche giorno perché beccate 3-4 volte senza biglietto in metropolitana. Sì, la prima volta perdonati, la seconda multa, terza multa, quarta volta vanno in galera in base al loro stipendio, cioè fanno tanti giorni di galera in base a quanto guadagnano al mese. Naturalmente sono casi estremi, ma mi sembra che ce ne siano 156 oggi in galera a Berlino. Cioè più a Berlino in carcere di quanti sono in Italia per corruzione, per non aver pagato il biglietto della metropolitana. Già come metro di paragone non è male, però resta da capire, Giardina, se è un bene o un male questa severità, se paga poi dal punto di vista della sicurezza sociale. Diciamo che i tedeschi sono sempre pessimisti, loro dicono di essere così, hanno il record della corruzione in Europa, sostengono loro, quindi si autocondannano. La cifra così è evasa, o la cifra della corruzione così giornaliera ammonta a 120 miliardi di euro all'anno secondo loro, quindi il doppio di noi, e sarebbe anche così molto di più anche in base al rapporto al PIL, al prodotto nazionale lordo della Germania, che è più alto del nostro, naturalmente. Ecco, no, perché paese che va in corruzione soluzione che trovi, questo vogliamo chiarirlo, perché sennò sembra che siano sempre più belli e più bravi. Però quelli... diciamo che cinicamente qui viene chiamato Schmiergeld, cioè il denaro per ungere, e dice che fino a un certo punto la corruzione serve a rendere più veloci le cose, però si calcola che la corruzione si aggira intorno al 10% del valore di ogni opera pubblica costruita, pensiamo a quello che è successo nella Germania Est dopo la caduta del muro, però diciamo che poi la corruzione qui cinicamente funziona. La Baviera, che è il paese più la regione più corrotta, sempre secondo i tedeschi, viene soprannominata Amigos Land, ma non fanno riferimento a noi, ma all'America del Sud. Però, all'America del Sud, insomma, Amigos Land. Tutto funziona. Da 50 anni i cristiano sociali, la democrazia cristiana locale, ha il 50% dei voti, perché poi sono corrotti ma efficienti. La statistica sui disoccupati al 2%, quindi quasi... Ma questo è interessante, cioè la corruzione in qualche modo funziona. Bruno Tinti, so che la frase già le farà stridere, le sarà piombata nelle orecchie con un suono sinistro, ma sa che il procuratore di Venezia Nordio ha detto più o meno le stesse frasi, a dire: quando ci sono troppe porte da aprire, troppe regole da rispettare, poi una di quelle porte, e tutte sono decisive, una di queste porte rimane chiusa, e ha usato proprio questa espressione che ci raccontava anche Giardina, si trova l'olio per ungere i cardini e questa porta alla fine viene aperta. Non è che è il sistema che crea anche la facilità per la corruzione, Tinti? Sì, questo è assolutamente vero. Il problema è che poi deve almeno che funzioni. Invece l'impressione che si ha qui in Italia è che poi i palazzi crollano, le dighe non funzionano, gli ospedali vengono costruiti dove non servono, al solo scopo magari di legittimare le tangenti. Cioè la situazione è che invece che la corruzione essere funzionale all'opera pubblica, è l'opera pubblica che è funzionale alla corruzione. E questo mi pare irragionevole. Irragionevole, ma l'idea che una sorta di livello di corruzione sia quasi necessaria per far funzionare le cose, lei come lo percepisce? Che vuole che le dica? L'altro giorno ero con un mio amico che fa il magistrato in Svizzera e con un altro amico comune, il quale era andato a lavorare da lui come capo della segreteria. Io ho detto: ma guarda che bello, come mai? Dice: sai, lui aveva bisogno di lavoro, io avevo bisogno di un capo della segreteria assolutamente affidabile, ho assunto lui. Figuriamoci se da noi questo sarebbe stato possibile. Evidentemente in un caso del genere non c'è bisogno di corruzione, perché i pubblici funzionari non si fanno corrompere e agiscono per il meglio. Invece da noi sarebbe l'occasione per fare un piccolo concorso privato a chi mi paga di più per essere assunto. Cioè lei dice un po' come sostengo io: siamo italiani e quindi quello è il problema. Eccolo lì. Cioè ce l'abbiamo un po' nel DNA. Come magari ce l'hanno, che ne so io, i libanesi, i congolesi, tutta gente che noi poi in qualche modo facciamo pure finta di disprezzare, o quantomeno di sentirci superiori, senza renderci conto che siamo largamente peggiori. Siamo largamente peggiori. Dopo la pubblicità mi fa una classifica, secondo me, di quali sono i migliori e quali sono i peggiori. 24 mattino. Eccoci, 8:39 minuti. Siamo qui con Bruno Tinti e Roberto Giardina. Giardina, c'è un ascoltatore via SMS che ci scrive: ma come, devo iniziare a fare l'elenco di ciò che succede di scandali in Germania? Aeroporto di Berlino, sede dei servizi segreti, filarmonica di Amburgo, treni, ICE, non lo so, io lo cito. Ma tu ci hai detto che in effetti la corruzione c'è, però lì paradossalmente c'è, è contemplata, ma garantisce anche un sistema che funziona tutto sommato, no? L'ascoltatore ha ragione. Adesso c'è stato uno dei dirigenti dell'aeroporto di Berlino che ha avuto una mazzetta, mi credo, di mezzo milione di euro, però ha perso il posto entro un'ora, cioè l'hanno licenziato. E finisce in carcere? Adesso sarà processato probabilmente. Qui per esempio per l'evasione fiscale fino a 100.000 euro si è condannati a una pena detentiva, ma con la condizionale. Se si arriva a 1 milione di euro si finisce in carcere senza condizionale. Come Uli Hoeneß. Tre anni e mezzo. Gloria del calcio. Non è servita a niente, insomma, è in carcere. È servita al fisco, perché i tedeschi che erano conti in Svizzera si sono spaventati, si autodenunciano, questo è possibile, e il fisco quest'anno è in carcere. È stato 5 miliardi in più in base alle autodenunce, quindi un caso che viene punito poi serve al fisco. Serve al fisco. Bruno Tinti, non so, nella sua personale classifica i tedeschi sono meglio di noi? apparentemente funziona meglio la loro economia, quindi evidentemente sono meglio di noi, nonostante queste tare endemiche del genere umano. Voglio dire, ci sarà la corruzione, ma se il loro paese è economicamente migliore del nostro, una ragione ci sarà. Poi guardi, quello che diceva il dottor Giardina è assolutamente, è molto importante. Che la corruzione sia diffusa più o meno, resta il fatto che non punirla aiuta ad aumentare la corruzione. Dice. Perché è criminogeno, la gente vede che non succede nulla, guadagna solamente e quindi continua. Quindi l'idea di Giampaolo, no, certo, l'idea di Giampaolo Pansa, che è quasi una provocazione, cioè la mossa disperata, gli dice tanto vale, visto che Pansa scrive a 78 anni, sono arrivato, ho raccontato decenni di tangenti, non è cambiato nulla, tanto vale legalizzarle queste tangenti. Dire che non è più un reato, legalizzarle in questo senso, il corruttore ha l'obbligo di dichiararle in bilancio. Quindi lui scarica il costo e quell'altro almeno ci paghi le tasse sopra. Dopodiché, se nemmeno questo succede, allora si andrà in prigione per evasione fiscale. Beh, certo, appunto, è un modo per recuperare le tasse, capisco. È un po' come la legalizzazione della prostituzione, su cui io scrivo da 4-5 anni, ma nessuno mi ascolta. Nessuno l'ascolta. Invece di vederle lungo la strada, legalizziamo e tassiamo. Su questo la Germania di Giardina ci potrebbe insegnare qualcosa. Fatemi sentire però ascoltatore, Luigi da Imperia ci chiama. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo dire una cosa, qualcosa che avete detto voi. Io ho giornali di 30-40 anni fa, dove da allora si racconta le stesse migliaia e migliaia di indagati. C'è uno qua sotto mano, De Mita, questo e quell'altro. De Mita, ma chiedo io, questi giudici quando indagano queste persone, ma che prove hanno in mano? Ma se hanno le prove, cioè l'idea sua è che forse anche le inchieste sono fatte male, se non si va troppo in prigione perché sono fatte male le inchieste. Ma io dico una cosa, guarda, cito la Bibbia, vuol dire che il problema l'avevano anche 2003. Prendete l'Ecclesiaste al capitolo 8, dice: siccome non si dà sentenza immediata contro chi commette il reato, il cuore dell'uomo è sempre pronto a fare del male. Vabbè, e punta adesso su questa parola, sentenza immediata sul posto, magari sul posto. Abbiamo fatto anche passi in avanti. Non so, Bruno Tinti, la lettura biblica le piace come? È molto ragionevole, purtroppo è un paese come che ragionevole, cioè, di giudizio, esatto, la sentenza immediata ovviamente appunto non funziona. Io quando ho detto sul posto era un po' provocatorio, insomma, siamo per carità, massimo rispetto per la Bibbia, ma voglio dire, poi il diritto ha fatto anche dei passi in avanti. Alessandro da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, allora niente, io volevo intervenire su quello che aveva detto prima il dottor Tinti in relazione al fatto che si dovrebbe intervenire sulla prescrizione e sulla, per il reato di corruzione e sul fatto di non poter usufruire dei benefici di scontare la pena a casa o servizi sociali, eccetera. Cosa vuol dire? Io non sono d'accordo su questo, nel senso che ritengo che un intervento che debba allungare i termini di prescrizione dei reati in generale o che debba abolire questo tipo di benefici sia in contrasto con un sistema democratico, teniamo presente anche la situazione attuale delle nostre carceri, no? Mentre si deve intervenire, secondo me, sul reato di corruzione aumentando la pena, perché se un reato deve essere punito anche in base a come diciamo l'illecito viene avvertito nella coscienza sociale, allora il reato di corruzione, secondo me, in questo momento non dico che sia più grave della rapina, visto che il termine di paragone era la rapina prima, ma però aumentare le pene, ma già aumentando le pene, aumentando la pena del reato. Ma è chiaro, se aumentano anche i termini di prescrizione, caro Alessandro, quindi non so, Tinti, lei è d'accordo, ma lei credo sull'aumento della pena? È come dire, tecnicamente sbagliato, nel senso che aumentare i massimi non serve a niente, la corruzione è già punita con 7 anni nel massimo di reclusione. Quello che si dovrebbe fare per stare dietro alla proposta di questo ascoltatore è aumentare i minimi, cioè dire meno di 7 anni non si può dare. Ora lei capisce che nel momento in cui diamo 200 euro al vigile urbano per farci levare la multa per sosta vietata, che facciamo? Diamo 7 anni di prigione. Forse un po' troppo, anche per Tinti. Non ha senso, no? E io realtà quello che veramente è sbagliato è dire che una legislazione assolutamente normale che non preveda questo sconcio di 4 anni di prigione, però non vai in prigione, non è vero che sia antidemocratica. Il nostro ascoltatore ha detto: se dovessimo annullare questi benefici non sarebbe indegno di un paese democratico. Questo non è vero. No, su questo sono d'accordo anch'io. Dovrebbe essere, invece di dire e urlare adesso alto tradimento, considerare la corruzione, noi siamo italiani, siamo sempre così, o agiamo poco oppure diciamo dei grandi proclami. Ma non sarebbe più banale se uno si prende 2 anni, 1 anno, 1 mese, 6 mesi, e che se quello è il carcere, fa il carcere, cioè se ci sono 3 gradi di giudizio, c'è un sistema democratico, ci si può difendere, e se uno sbaglia, come, e per concludere con Giardina, come Ernest, torniamo lì, anche se il reato è diverso, cioè lo fa il carcere, no? E non credo che abbia degli sconti o abbia non so, ma va in carcere per la prima sentenza, il primo grado di giudizio, non è che arriva in Cassazione. Ah, ecco, appunto, tra l'altro. E poi qui è un paese forse luterano, si fa. Beh, lui però ha ammesso, ha detto: io ho sbagliato, devo pagare. Perché forse andava peggio se andava in appello, però voglio dire, qui per esempio il fatto che fino all'ultimo grado di giudizio io non devo essere così condannato, rimango nel mio posto di politico, di amministratore pubblico, qui è diverso, cioè vale per me, vale per comuni cittadini, ma un politico viene subito estromesso. Quello è avvenuto per il Presidente della Repubblica Christian Wulff, perché avrebbe avuto un regalo di 750 euro da un amico che gli ha pagato. È vero. Cioè l'idea è: il politico paga di più in funzione appunto del suo ruolo alto istituzionale che ha. Allora io ringrazio Bruno Tinti, ex magistrato, firma del Fatto Quotidiano, e Roberto Giardina, che da Berlino è il corrispondente del Quotidiano Nazionale. Dopo il traffico, e lo voglio già salutare, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone è venuto a ritrovarci. Buongiorno presidente, un attimo di pazienza perché ci sono novità anche riguardo a quelle che sono gli stipendi dell'Assemblea del Parlamento siciliano, tra poco. Allora, le 8:48 minuti, due premesse: siamo in clima di spending review e quindi bisogna tagliare un po' gli stipendi. La seconda premessa: le spese dell'Assemblea regionale siciliana del Parlamento sono equiparate per legge a quelle del Senato nazionale, o no? È così, presidente Ardizzone? Quindi la legge mette tutto equiparato. Però ha fatto un po' specie vedere questa cifra, ovviamente spiattellata sui giornali, a dire uno stenografo del Parlamento siciliano può arrivare a fine carriera a guadagnare 200.000 euro, ma è davvero così? Sì, si figuri, per noi se può fare specie non mai, proprio in Sicilia dove la crisi si è aperta ancora in maniera molto più forte, però lei ha detto bene, a fine carriera. C'era una equiparazione al Senato e il tentativo che abbiamo fatto, ma penso che siamo ormai alla fase finale, è quella di sganciarci, almeno per quello che riguarda gli stipendi, proprio dal Senato. Si è parlato del segretario generale che aveva una cifra che superava complessivamente 500.000 euro, noi abbiamo stabilito un tetto massimo di 240, che non è che ci siamo sognati, è il tetto massimo previsto dal decreto Renzi. Sì, esatto. Però attenzione, le vorrei precisare, il decreto Renzi lascia fuori gli organismi di rilevanza costituzionale, cioè lascia fuori proprio il Parlamento, il Senato, la Corte Perché quelli hanno l'autodichia. Noi invece ci siamo, dico, nonostante noi siamo equiparati al Senato per quello che riguarda il tetto massimo, c'è questo parametro oggettivo. Di 240.000 euro, ma da quanto? Quando... Non sono bruscolini. No, chiaro, si parla sempre. No, ma questi 200.000 euro a fine carriera invece per gli stenografi, pensi che molti italiani pensano che non abbiano più senso neanche stenografare sedute? Perché... No, guardi, questo non credo io. Perché? Questo non credo, ecco, era una vecchia polemica. Sono gli stenografi che ci sono al Senato, che ci sono al Parlamento nazionale, sono persone che si alternano e non fanno solo gli stenografi, però è una cifra molto alta, però dico, lei ha detto bene, a fine carriera. E questo riguarda però, attenzione, tutti i contratti in corso, cioè per i nuovi contratti già abbiamo applicato all'Assemblea regionale siciliana, ci siamo svincolati dal Senato, c'è una riduzione del 20% degli stipendi, gli ultimi assunti che risalgono al gennaio 2013 non sono più equiparati neanche ai fini pensionistici al Senato. Quindi abbiamo fatto un grosso sforzo, così come colgo l'occasione per precisarle, quando si parlava pure degli stipendi dei parlamentari, ad iniziare del mio, noi non abbiamo pensato più di tanto ad equipararci agli altri consigli regionali. Sì. Questo l'abbiamo fatto già a decorrere dal 1 gennaio 2014, siamo equiparati agli altri consigli regionali. Vogliamo ricordare anche il suo stipendio, il presidente dell'assemblea regionale, quanto è netto? Ce lo dica netto, che così capiamo. Netto 9.400-9.500. Compresa, attenzione, quando parliamo di stipendio, allora all'ordo è 13.800 ogni comprensivo di tutto, okay. Così come per il Presidente della Regione e il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, compresa la diaria, le spese... A 9.400-9.500 poi signor... si vende dalla trattenuta fiscale. È comunque, diciamo, uno stipendissimo, diciamo, perché sa, c'è stata una polemica anche perché l'ex ministro Miccichè lì in Sicilia ha detto con 4.000 euro non si può vivere, dovevo candidarmi all'Europarlamento, non si può vivere bene, per la verità. Io non si può vivere con 4.000, c'è gente che vive con, purtroppo, con 700-800 euro, noi dobbiamo lanciare messaggi distensivi, a nessuno piace avere ridotto lo stipendio, l'abbiamo fatto perché era giusto farlo, se cambia per tutti, ci dovrebbe essere un incremento soprattutto per gli stipendi, quelli minimali. Quindi lei il suo stipendio... È assurdo che un poliziotto prenda 1.200 è euro. Il suo stipendio come lo definisce, con un aggettivo, insomma, questi 9.000? È uno stipendio alto per i parametri che ci sono in atto, questo mi rendo perfettamente conto, però rendiamoci conto che si tratta di un lavoro H24, si mette da parte la propria professione, stavo dicendo non è solo stipendio perché l'indennità è di 6, il resto sono tutte spese di diaria, cioè io sono di Messina e abito a Palermo, ma non sto qua a giustificare il mio stipendio, glielo dico con la massima chiarezza, se potessi mi ridurrei pure questo stipendio, l'abbiamo ridotto di gran lunga, non ci sono degli elementi aggiuntivi. Perché dice se potessi lo ridurrei, cioè perché cosa lo impedisce? Ci sono i regolamenti? Perché c'è una conferenza che è stata fatta fra lo Stato e le regioni, con il decreto Monti sono stati stabiliti questi parametri che valgono per tutte le regioni. Ripeto, noi ci potevamo pure agganciare, non l'abbiamo fatto, però dico, è uno stipendio più che dignitoso. Più che dignitoso, diciamo così. Senta, poi c'è l'altra vicenda che credo abbia fatto dei passi avanti sui vitalizi, tra cui la polemica, noi la chiamammo quando c'era la vicenda del vitalizio che viene pagato ancora all'ex presidente della regione Cuffaro che si trova in carcere. So che ci sono dei cambiamenti, forse potrà essere sospeso, non eliminato ma sospeso, è così? Ho capito subito, tant'è che anche sulla base di una trasmissione, ecco, ci siamo sentiti qualche mese fa, sì, quando era scoppiata questa polemica proprio con voi. Allora, ribadisco, c'è un'assurdità nella legge, la legge nazionale prevede che si sospende l'assegno vitalizio nel caso in cui un consigliere regionale sia stato condannato per un reato contro la pubblica amministrazione, nel caso in cui gli sia stata comminata la pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, salvo riabilitazione, nel caso di pena temporanea, di interdizione temporanea, limitatamente al periodo di sospensione della pena temporanea. Era scoppiato, si dice, un caso Cuffaro, perché il caso Cuffaro a primo impatto non gli viene sospeso l'assegno vitalizio perché, anche se condannato per mafia, cioè per un reato più grave, perché non è condannato, non ha l'interdizione perpetua alla pubblica amministrazione. Ora, che cosa hanno fatto gli uffici, i tanto vituperati uffici dell'assemblea, senza l'incalzare dell'opinione pubblica da parte di nessun gruppo politico o movimento? La legge viene approvata nel mese di gennaio, poi noi abbiamo il regolamento attuativo che avviene nel mese di maggio. Già il 3 febbraio scriviamo a tutti gli ex parlamentari regionali per fare l'autocertificazione. In effetti Cuffaro si scopre, ma peraltro era chiaro, viene condannato per un reato di mafia, che è quello più evidente, ma anche per un reato contro la pubblica amministrazione, violazione del segreto d'ufficio. E allora si può? Non è così semplice. Io stesso ho dichiarato, abbiamo sospeso momentaneamente l'erogazione perché l'Avvocatura dello Stato sta accertando. Perché il reato per il quale sarebbe stato condannato Cuffaro, il 326 per il quale è stato condannato, correggo, Cuffaro, bisogna vedere se quel tipo di reato prevede. Però Presidente, ma guardi, è chiaro. Scritta all'avvocatura dello Stato. E vabbè, e questo si chiarirà. Guardi, facciamo così, puntata prossima lo chiariremo, perché adesso il tempo è scaduto, ci dobbiamo riaggiornare a domattina alle 6:30, ma ci ritorniamo su questa vicenda. A domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.